Investire informati. Le ho servito un bel piatto, Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Leggo dai giornali questa mattina che ormai avete deciso ufficialmente di venir via da Londra per la Brexit. Non la metto subito in imbarazzo con questa domanda, tanto lei sta a Milano, non le interessa più di tanto. No comment. Per il momento siamo a Milano. Allora, ovviamente come sempre spazio anche alle domande degli ascoltatori su tutto questo bel piattino di questa mattina, che non prevede colesterolo, mi pare un piatto anche se è pesantuccio direi, ma insomma lo possiamo digerire boccone dopo boccone. 800 24 00 24 per le vostre domande sui temi che vi interessano in particolar modo. Noi nella prima parte ci occuperemo in particolar modo dei mercati finanziari e poi faremo il nostro focus sulle novità MiFID nella seconda parte della trasmissione. C'è poi anche il domandone e poi adesso un'informazione di servizio, perché come vi dicevo prima, giovedì 18 e venerdì 19 io e Nicoletta siamo all'IT Forum di Rimini. Sì, ci l'investment sono già ascoltatori che ci stanno scrivendo. Cosa vogliono sapere? Dove siamo esattamente? E verranno a trovarci. Per venirci a vedere ovviamente come sono queste due belle facce. Esatto, saremo lì in diretta con il nostro programma, ma ci saremo anche con due eventi, in particolar modo giovedì 18 nel pomeriggio. Il primo si chiama Febbre da Trading, ci occuperemo di quelle persone che si avvicinano al mondo del trading online in maniera non corretta, tema che abbiamo affrontato con Nicoletta in diretta. In diretta Cuore Denari, perché qualche volta affrontano questo mondo e fanno l'errore di avvicinarcisi come il gioco d'azzardo. Sì. E quindi si cade addirittura quasi in una patologia simile alla ludopatia, Nicoletta. Quindi tu porterai anche un medico? Sì, porterò un medico che si occupa proprio di questo aspetto e di dipendenza di ludopatia. E io invece dal punto di vista dei denari, perché faremo un Cuore Denari anche in questo convegno. Sì. Febbre da Trading, appunto, avrò con noi due trader. E un altro convegno invece si intitola Investo o Risparmio, ci sarà anche Lorenzo Alfieri con me insieme ad altri due esponenti dell'industria del risparmio gestito italiano, Armando Carcaterra di Anima e Massimo Mazzini di Eurizon. I due concetti sembrano simili ma in realtà sono profondamente differenti e quindi proveremo a capire un po' come la pensano sia i nostri esperti ma anche le persone che vorranno venirci a trovare lì per seguire questi convegni, perché lo si può fare. Adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Naturalmente partiamo, sì, da qui. Ho ripreso il cancan. Brava. Marsigliese non mi piace. Esatto. Allora, dottor Alfieri, domenica la Francia va all'attesissimo ballottaggio. Il risultato elettorale anche in questo caso appare scontato, ma aspettiamo che arrivi prima di essere convinti del risultato, appunto, perché poi il mercato, quando arrivano le sorprese, è del tutto impreparato e la borsa fa quello che fa. Lo dicevamo anche nell'altra puntata, la borsa francese non se la passa male, no? L'indice principale guadagna qualcosa come, è vicino al 15% di rialzo forse dall'inizio dell'anno ed è sui massimi comunque dal 2008. Praticamente ha cancellato la crisi derivante dallo scoppio della molla dei mutui americani. Cosa ci suggerisce tutto questo, tutta questa effervescenza? Ma appunto, come dicevo l'altra volta, i mercati finanziari in questo momento sono particolarmente focalizzati sui dati economici che sia negli Stati Uniti che in Europa e in Asia sono particolarmente interessanti, una crescita non ovviamente esplosiva ma comunque costante, e dall'altra parte utili aziendali negli Stati Uniti ma soprattutto in Europa molto rilevanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo momento gli investitori sono particolarmente e maggiormente attratti da queste notizie positive e hanno per il momento parcheggiato le preoccupazioni derivanti dalla potenziale crisi politica che ci poteva essere in Europa, prima nelle elezioni olandesi, poi in quelle francesi, magari se alcune parti avessero prevalso. In questa fase quindi c'è maggiore tranquillità, lo scenario politico sembra essere più favorevole a un proseguo dell'esperienza europea così come la conosciamo, E per questo motivo prevalgono, diciamo, gli ottimisti. Quindi, archiviato il risultato elettorale francese, da lunedì il vostro focus dell'industria del risparmio gestito e anche il focus dei piccoli risparmiatori praticamente sarà su questi aspetti, su questi temi, Alfieri. Ma in parte è vero, ma non bisogna dimenticarci che comunque rimangono sul tavolo alcuni punti interrogativi. Ci saranno le elezioni politiche tedesche, guardiamo però prima di tutto ai risultati che avremo in Francia, se effettivamente verrà confermato una parte piuttosto che un'altra, perché ovviamente gli scenari possono essere diversi, e non dimentichiamoci anche le elezioni politiche possibili in Italia, e questo è l'elemento politico su cui bisogna riflettere. Sullo sfondo ovviamente si stanno stagliando poi degli scenari geopolitici un po' più complessi, possiamo dire anche forse un po' più inquietanti, e chiaramente la politica estera di Trump non è ancora definita nella sua completezza, e quindi gli analisti, anche questo è un elemento a cui guardano. Poi ci sono però gli aspetti anche economici importanti. In questa fase c'è una crescita abbastanza interessante, come dicevo prima, in Europa, negli Stati Uniti, in Asia. Bisogna vedere verificare la conferma, e dall'altra parte se l'inflazione può riprendere. Perché è importante la ripresa dell'inflazione? Una ripresa dell'inflazione anche modesta, intorno al 2-2,5, significa che effettivamente la crescita viene confermata, e questo è una trasmissione positiva per i consumi e per l'economia in generale. Quindi sul tavolo, diciamo, ci sono elementi positivi, li citavo all'inizio, ma anche da tenere presente per il secondo semestre alcuni elementi che devono essere ancora completamente risolti. Incognite sulle quali non è proprio il caso di abbassare la guardia. Peraltro, citando proprio la crescita americana, ricordiamo che ieri sera si è conclusa la 2 giorni di riunione della Banca Centrale Americana, che ha lasciato i tassi invariati, ma la signora Janet Yellen nella sua conferenza stampa ha detto che strette ci saranno quest'anno, ma lo sapevamo già, probabilmente ne arriva un'altra in giugno. Qualcuno l'aveva messa in dubbio, perché nel primo trimestre l'economia americana è cresciuta di circa lo 0,7% ed è un dato molto inferiore alle attese, ma questo rallentamento, ha detto Janet Yellen, è solo transitorio. L'economia cresce a ritmi interessanti negli Stati Uniti, e quindi arriverà questa stretta appunto in giugno. Cuore e denari. Siamo ritornati ad Investire Informati. C'era una bella domanda a cuore e denari, Nicoletta, quella sul colesterolo sopra sotto. Sì, molto carina. Di un ascoltatore illuminato, secondo me, che ci ama. Quando l'inflazione è al 2% è come il colesterolo buono, mentre sopra il 2% è come il colesterolo cattivo? Lorenzo Alfieri, l'obiettivo del 2% è il chiodo fisso della Banca Centrale Europea, secondo quanto esprime dichiaratamente appunto lo statuto dell'organismo di Francoforte. Però è un livello al quale ci stiamo riavvicinando piano piano. Ma sì, la definizione la definirei abbastanza corretta. Storicamente diciamo che inflazioni che sono state ricomprese tra il 2 e il 3,5-4 hanno dato molto poco fastidio ai mercati finanziari. Al di sopra di questa soglia, ma possiamo dire anche al di sotto di questa soglia, cioè sotto il 2%, inflazione addirittura negative come abbiamo vissuto nelle annate precedenti, ovviamente non sono sicuramente situazioni favorevoli o che vengono viste di buon occhio dagli investitori. Allora, ritorniamo sul tema che abbiamo lanciato prima della pausa. Ogni anno in questo periodo ci interroghiamo sulle sell in May and go away, che non sempre si realizza. Vendi a maggio e scappa, fai tranquillo le tue vacanze estive per poi riposizionarti sui mercati azionari magari a partire dalla fine di agosto, inizio di settembre. In realtà, come dicevo appunto, non sempre questo detto si realizza, ma forse quest'anno, dottor Alfieri, dati i numeri espressi dalle borse che abbiamo indicato anche prima, potrebbe starci dietro l'angolo una correzione per i mercati, almeno per quelli che viaggiano su livelli record. Lei la vede possibile? Ma innanzitutto bisogna ricordare che non esiste una regola. ancora nel modo più assoluto, guardiamo oggettivamente la situazione. E come dicevo all'inizio e spiegavo, questa fase economica è particolarmente interessante e mi sembra che i mercati di questi giorni lo stiano confermando. Le aziende americane e anche quelle europee, le aziende americane stanno chiudendo una trimestrale record, se vogliamo così dire, per le aspettative. Ci si aspettava una crescita molto più contenuta, stiamo vedendo una crescita che in media si aggirerà rispetto all'anno scorso di un più 12% di utili, quindi rispetto conseguiti dalle aziende. Per quanto riguarda l'Europa siamo in ottima compagnia, perché anche in questo caso si parla di una crescita a doppia cifra. Anche l'Asia sta facendo molto bene, questo solo per dire che gli utili aziendali sono stati sorprendenti, quindi rappresentano una crescita complessiva globale molto solida. Quindi sotto questo profilo possiamo dire che i mercati sono ben supportati. Dall'altra parte è corretto però ricordare che i mercati finanziari sono per alcune piazze ai massimi storici, Stati Uniti, in Europa Francoforte, è stato ricordato l'indice tecnologico, ma ci sono dei mercati come ad esempio l'Italia che sono ancora poco cari, come viene detto, cioè cheap, a buon mercato. Quindi direi che il mercato... Ce ne puoi indicare un paio? Mercato azionario sicuramente, quello italiano in generale è sicuramente, per dire, nell'Europa, ma anche quello spagnolo, sono sicuramente mercati che hanno corso di gran lunga meno rispetto agli altri mercati, soprattutto negli anni precedenti. Quindi questo solo per dire che potrebbe esserci un rallentamento in questa fase a maggio, assolutamente comprensibile, ma così come sono le cose in questo momento, pensare che ci possa essere una fuga dei mercati azionari, quindi una correzione consistente, per rispettare il vecchio detto, in questo momento non se ne vedono assolutamente i segnali. Senta, a proposito di questi record di alcune piazze finanziarie, quelli più consistenti appunto li sta mettendo a segno da moltissime sedute a questa parte il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani, il Nasdaq composito in particolar modo è quello che viaggia su livelli record, è vicino a 6.100 punti, è leggermente sotto con la leggera correzione di ieri, ma il suo livello record appunto è stato toccato al di sopra di questa soglia. Ma in molti si chiedono, stiamo vivendo un'altra stagione, un'altra versione della new economy? C'è sostanza dietro a questi rialzi oppure l'euforia legata un po' a tutto il mondo tecnologico che corre senza sosta? Viviamo l'epoca naturalmente delle app, della... Non lo so, insomma, che cosa ci racconta questa tendenza? Ma che partiamo da ovviamente un dato di fatto. Come sappiamo c'è molta liquidità alla ricerca di investimenti interessanti. I rendimenti, segnatamente quelli dei titoli di Stato, comunque del segmento obbligazionario, sono scesi molto, quindi non sono più interessanti o non sono molto interessanti, e per questo si guarda con maggiore attenzione al mondo azionario, agli investimenti azionari, e in primo luogo ovviamente a quegli investimenti o a quelle aziende che possono crescere o continuano a crescere comunque a cosiddette double digit, cioè sopra il 10, il 15%. E all'interno di questa schiera ovviamente troviamo inevitabilmente proprio le aziende della digital, della nuove tecnologie, che hanno sicuramente dei rapporti prezzo utili molto molto alti, e quindi bisogna essere molto cauti nell'investimento, ma che dall'altra parte, abbiamo visto l'esempio di Apple proprio questa settimana, continuano a crescere, ma dall'altra parte consentono o garantiscono ad esempio dividendi molto importanti. Hanno, per esempio, Apple ha previsto un rialzo del 10% dei propri dividendi, sì, ed avviano al cosiddetto operazione di buyback, cioè acquisto di azioni proprie, decine di miliardi di euro o di dollari. Quindi è chiaro che gli investitori vengono attratti. Bisogna essere molto attenti, molto cauti. È corretto ricordare che ovviamente stiamo parlando di multipli che a volte sono 20, 30, 40 volte il prezzo di 30-40 volte gli utili attesi dei prossimi 2-3 anni. Quindi ovviamente sono aziende estremamente care e che possono ovviamente nello specifico avere anche delle fasi di correzione. Ciò non vuol dire che comunque il segmento tecnologico in generale non sia uno dei settori più interessanti, lo rimane per le dinamiche che stiamo vedendo nelle principali economie. Tra l'altro, per completare il quadro americano, ricordiamo che domani, fine della settimana, arriva anche il dato sulla disoccupazione di aprile. Anche questo è sempre un test estremamente rilevante per gli investitori. Avete delle aspettative particolari? Qua continuiamo a raccontare di un'economia che esprime un regime di quasi piena occupazione, un sogno per noi. E peraltro, Nicoletta, noi domani torneremo a parlare di lavoro, occupandoci di una fascia sociale molto speciale. Magari possiamo anticipare un po' l'argomento. Sì, che sono quelli dei over 50, i cinquantenni, direi, che è un momento anche importante nella vita. Cambia comunque qualcosa, cambia a livello anche fisico, non solamente mentale. Sicuramente le influenze dell'ambiente che ci circonda, le sfide che siamo chiamati ad affrontare, hanno un peso rilevante. Gli over 50 che rimangono senza lavoro in Italia la prendono molto male, giustamente. Chissà se così succede anche negli Stati Uniti, ma tornando alle nostre percentuali nude e crude, Alfieri, avete delle aspettative particolari per il dato di domani e perché è così importante? No, beh, direi che come è stato accennato precedentemente, la piccola delusione che è stata che è derivata dal dato trimestrale del primo trimestre del prodotto interno lordo americano, noi riteniamo sia semplicemente un incidente tra virgolette di percorso. La crescita degli Stati Uniti rimane ferma al di sopra del 2%, e vi ricordo che, come dicevo l'altra volta, ancora non vengono incorporate le eventuali gli effetti positivi che dovessero arrivare da manovre fiscali particolarmente importanti e impattanti della nuova presidenza. Quindi in questo momento lo scenario comunque è di una crescita interessante e importante, e su questo ovviamente poi deriva anche un dato che ci aspettiamo ovviamente confermato sulla parte molto bassa della disoccupazione americana, un livello che dovrebbe essere confermato intorno al 4,5, storicamente un livello bassissimo. E quello che è più importante è ancora un livello di inflazione ben al di sopra del 2%. Quindi lo scenario per gli Stati Uniti rimane in questo frangente positivo, e per questo ovviamente le borse comunque continuano tra virgolette a correre, comunque andare particolarmente bene, trascinandosi dietro ovviamente anche gli altri listini. Allora, speriamo che i nostri ascoltatori abbiano ascoltato attentamente un po' tutto questo affreschino americano che abbiamo fatto, perché tra un po' scatta l'interrogazione. Esatto. Intanto sono le 11:43, ma io riesco ad introdurre con una piccola scheda che ha preparato Marco Lombardo anche il prossimo tema di approfondimento con Lorenzo Alfieri. Sentiamo. MiFID 2, un acronimo che rischia di restare confinato nel gergo finanziario, sconosciuto ai più, e che invece vale la pena di approfondire, visto che riguarda le regole di trasparenza volte a tutelare tutti gli investitori. In inglese sta per Markets in Financial Instrument Directive ed è la seconda direttiva europea sugli intermediari e i mercati finanziari. L'Italia entra nell'era MiFID II con un decreto legislativo che ora si appresta all'esame delle Camere. Per ogni prodotto si individueranno un target positivo e uno negativo di clienti, con l'obbligo esplicitato di collocare prodotti adeguati. Le autorità di vigilanza, europee e nazionali, potranno intervenire direttamente su un prodotto finanziario per proibirne la distribuzione se giudicato dannoso. Cambierà qualcosa anche per i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria. È prevista una riorganizzazione complessiva del sistema delle sanzioni e verrà istituito un organismo che vigilerà sulla loro condotta. Un'altra novità è poi l'abilitazione anche all'offerta fuori sede. Quindi, detto in parole povere, la consulenza potrà essere effettuata anche in casa del cliente. La MiFID II distingue la consulenza indipendente da quella non indipendente. La prima deve essere remunerata esclusivamente da parte del cliente. Maggiori tutele saranno previste per assicurare l'assoluta trasparenza sui costi collegati all'investimento e nell'informazione dell'investitore. Cosa ne pensa delle criptovalute? Chiede un ascoltatore. Ecco, se qualcuno andrà a suggerire a questa persona un investimento in criptovaluta, magari la MiFID consentirà a questo consulente di essere bastonato, perché insomma sono mondi ovviamente un po' stravaganti dai quali suggeriamo di stare lontani. Cuore e denari. Oi oi oi, ci siamo. Signora Longari, si metta la cuffia. Eccomi. Che adesso le faccio la domanda. Allora, il tema del domandone di oggi è facile facile. E c'è stato un momento in cui eravate tutti tanto appassionati di questo mondo, quello tecnologico. Lo sono anche adesso gli investitori, a giudicare da come sta volando verso mete sempre più alte il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici americani. Allora oggi vi chiedo, guardate, tanto se andate su internet e trovate al volo, quando è stato fondato questo indice? Ma vi faccio anche un'altra domanda, quindi rispondete a piacere. Quando sono stati toccati i record più forti rispetto a quelli attuali, per esempio all'inizio degli anni 2000, quando eravamo proprio nel pieno della new economy? Un'altra domanda che vi posso fare, ne avete tre a disposizione, quindi certo, per forza il libro l'ho portato a casa. Qual è la società, l'abbiamo pure citata prima, che ha la maggior capitalizzazione di borsa in assoluto negli Stati Uniti? È quotata al Nasdaq, ne abbiamo parlato poco fa, credo che sia ancora quella. Dottore Fiai mi risponda solo con lo sguardo, e quindi insomma siamo veramente in un terreno semplicissimo. Noi accettiamo però solo le risposte all'800240024, quindi non tentate di barare. A vostro piacimento, ne hai date tre. Non barate su WhatsApp, sugli SMS, perché non le prendiamo. Va bene. Va bene? Quindi Nicoletta, tu controllami WhatsApp, se qualcuno prova a... Andiamo lì e bacchettiamo, esatto, facciamo le maestrine. Andiamo invece alla nostra MiFID, Lorenzo. Damiano, perché questo subito cosa se certo, perché... cosa non è chiaro quando io dico telefonare? Damiano, adesso mi sta scrivendo. No, allora. Dami, stai bravo. Dottor Alfieri, la MiFID 2 è una novità sicuramente non di poco conto, perché per chi avesse già avuto la curiosità di andare ad informarsi su questa disciplina legislativa sa già che le nuove norme sono particolarmente importanti per i risparmiatori, su cui saranno positivamente riversate, perché ci sono per loro tutele più stringenti. Dal suo punto di vista, quali sono gli aspetti più qualificanti della normativa? Quali sono anche gli oneri a carico dell'industria, cioè voi operatori dell'industria del risparmio gestito, come vi dovete preparare a tutto ciò? Avete degli adempimenti specifici che state affrontando? Ma innanzitutto MiFID 2 identifica evidentemente anche col numero dietro un ulteriore passo di crescita, maggiore trasparenza che l'industria deve ovviamente accogliere per risolvere le esigenze degli investitori. Ci sono tanti elementi che si racchiudono all'interno della MiFID 2, cercherò però di essere veramente molto sintetico e semplice. Io credo che la cosa più importante da rilevare sarà una maggiore collaborazione tra i vari attori del mercato, soprattutto da una parte le società prodotto e dall'altra gli distributori. Le società prodotto, ad esempio, cito un esempio molto chiaro e semplice, dovranno essere più chiari e trasparenti nel comunicare le caratteristiche dei prodotti che vanno al distributore. Quindi voi, nella fattispecie, ha per esempio l'intermediario che distribuirà un vostro prodotto. Perfetto. E dall'altra parte i distributori dovranno essere molto chiari e coerenti nella presentare, nel proporre un prodotto al cliente finale. È stato citato l'esempio appunto del cosiddetto target market, che è uno degli elementi probabilmente più importanti, più interessanti. È chiaro che il produttore deve individuare immediatamente il mercato di sbocco del prodotto che sta, ad esempio, realizzando. Non possono ad esempio essere proposti prodotti particolarmente complessi quando il mercato di sbocco è un mercato fatto da investitori cosiddetti retail, che ovviamente non capiscono o capiscono poco di mercato e quindi non possono essere oggetto di vendita di prodotti complessi. E questo è il motivo per cui ci saranno, come dicevamo prima anche nella scheda, dei presidi a difesa dei risparmiatori, e questo pure è un aspetto di grande rilievo. E soprattutto, concludo, è evidente nel disegno della MiFID 2 quella di creare una catena in continuità tra produttori, distributori e cliente finale, in un triangolo che sarà molto più forte, prossimo e solido in termini di comunicazione, di trasparenza e di efficienza. Questo ovviamente per il beneficio ultimo dell'anello debole di questo triangolo, che è sempre stato ovviamente l'investitore finale. Certo, quindi insomma attenzione a questa novità, sulla quale faremo sicuramente molte puntate in vista dell'ingresso nel nostro ordinamento di questa normativa a partire dal gennaio dell'anno prossimo. Attenzione a come vi vengono suggerite le soluzioni di investimento, se ritenete che il prodotto non è adeguato alle vostre necessità e alle vostre caratteristiche di risparmiatore, avrete anche la possibilità magari di fare delle denunce più articolate rispetto a queste situazioni. Ci saranno presidi a difesa dei risparmiatori, viene addirittura prevista la possibilità di bloccare, pensate, la distribuzione e la vendita di prodotti considerati troppo rischiosi, per cui una condizione molto tutelante per il risparmiatore finale e condizioni alle quali, appunto, novità alle quali anche l'industria si sta naturalmente preparando. Se avete anche delle curiosità su questo, 800 24 00 24 naturalmente per tutte le vostre necessità di avere le idee un po' più chiare. Tornando ai mercati, ci sono intanto degli ascoltatori che si stanno candidando appunto alla rispostona al domandone, e intanto altri si sono un po' scandalizzati rispetto al giudizio che ho dato sulle criptovalute, le criptomonete, ma io qua archivierei immediatamente l'argomento, neanche ci voglio entrare, e tornerei sui mercati alfieri, perché proprio ieri il Sole 24 Ore ha riportato il sondaggio mensile che viene effettuato da una società vostra concorrente, della banca americana Bank of New York Merrill Lynch. I risultati, peraltro, di questo sondaggio sono apparsi a qualcuno sorprendenti, perché il 48% dei grandi gestori interpellati che hanno partecipato al sondaggio hanno dichiarato in questa fase di voler sovrappesare, cioè aumentare il peso nel portafoglio delle azioni europee, e da quasi un anno e mezzo a questa parte non si riscontrava un interesse tanto elevato per l'equity continentale, cioè il mercato azionario appunto del vecchio continente. Un po' siamo in linea con quello che lei diceva prima. No? Assolutamente. Quindi le chiedo appunto un commento su questo. No, assolutamente. Ricordavo appunto il forte interesse che gli investitori hanno da ormai parecchi mesi a questa parte per l'investimento azionario. Una delle aree più interessanti è senza dubbio l'Europa, per i tassi di crescita inaspettati, per l'andamento molto positivo degli utili, ma il problema in Europa, non dimentichiamoci, era l'elemento politico. Dopo l'elezione olandese, quelle francesi che si risolveranno, ovviamente lo scenario è più sereno, a meno che ovviamente non ci sia in Francia un risultato inaspettato, ma se così fosse, si va verso le elezioni tedesche, che sono invece meno complesse, e quindi lo scenario di investimento, la regione Europa risulta essere sottovalutata rispetto alle altre aree, soprattutto rispetto ai mercati finanziari americani. E quindi ecco che gli investitori ovviamente ritornano e stanno rientrando con molto piacere in Europa, ovviamente per posizionarsi su un mercato, come dicevo prima, poco caro. Siamo molto orientati sempre nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti dell'Europa per le questioni politiche, e da un po' di tempo molto meno frequentemente parliamo di tutto il resto del mondo. Ma insomma, voi siete degli investitori globali, Alfieri, in quale altra parte del pianeta dobbiamo guardare per così valutare se ci sono delle opzioni di investimento interessanti da cavalcare, magari appunto sempre considerando che quando si va in giro per il mondo bisogna avere un'ottica di un po' più lungo periodo rispetto alle aree che sono più vicine a noi. Di lungo periodo direi di diversificazione. Comunque è corretto ricordare che in questa fase stiamo guardando di nuovo con particolare interesse, dopo avere abbandonato per qualche periodo i mercati emergenti, appunto queste aree, soprattutto paesi come la Russia, il Brasile, la stessa Cina, l'India, alcuni paesi dell'est asiatico, alcuni paesi dei mercati emergenti europei, quindi ad esempio dell'est europeo. Ecco, diciamo che i mercati emergenti in questa fase sono particolarmente interessanti. Perché? Perché sottovalutati. Da una parte, come dicevo prima, la crescita economica si è stabilizzata e soprattutto non dimentichiamo in ultima analisi che le aziende di alcuni paesi emergenti stanno andando molto bene. Luciano dalla provincia di Roma. Allora, tra tutte le domande fatte sul Nasdaq, che è l'indice tecnologico americano istituito, lo dico io, nel febbraio del 71, qual è la società a più alta capitalizzazione? La Apple. Grazie Luciano, bravo. Tra l'altro, eccolo qua, Pierluigi da Milano era pronto anche alla sua risposta sulla data di fondazione dell'indice della New Economy, ma la vedevo appunto sbagliata. Pierluigi, però le mandiamo qualche cosina anche a lei lo stesso. Grazie a Lorenzo Alfieri per essere stato con noi. Con lei ci vediamo a Rimini. Grazie. Nicoletta, a con te domani. Ci vediamo fra 3 secondi direi. A dopo, buona giornata.